Camarata. Sanctus, Sanctus Dominus. Benvenuti. Benvenuti amici e amiche di Radio Page. Sentiamo se il Gab c'è. Sì, c'è. ci sono. Ciao a tutti. Ciao, questa è Testa Croce Show, un'ora di religione. Sì, ma... ma anche altro. Sì, ma anche no, di alternativa, insomma. Sì. Una religione un po' alternativa. Diciamo sì, così. E oggi abbiamo un ospite. Sì. Come quasi sempre ultimamente. Sì. Vi presentiamo Maurizio Pucci. Buonasera a tutti, grazie di avermi invitato. Grazie per essere qui. Grazie a te di essere qui. Maurizio è il fondatore del Conciliabolo Celtico Toscano. Quindi parleremo con lui di questa realtà e più in generale del cosiddetto revival celtico. Sì, esattamente. Quindi appassionati di Irlanda, appassionati di musica celtica. State con noi, state perché con noi. Tutti gli altri, c'è pane per i vostri denti. Tutti gli altri stanno anche con noi. Sì, per altri motivi, per i soliti motivi per cui ci seguite sempre. Esatto. Allora, ricordiamo i nostri contatti per intervenire in diretta, sì, per fare domande anche a Maurizio. L'email è testacroceshow@gmail.com. Altrimenti il contatto Skype è testacroceshow. E il nostro blog testacroceshow.blogspot.com, in cui ci sono anche nuovi podcast, giusto? Sì, ci sono le puntate dalla 1 alla 15, quindi beh, siamo quasi in pari. Cioè in pari col programma comunque. Sì, più o meno. Manderemo sempre un po' in ritardo i podcast. Beh, mi sembra il minimo. Sì, sì, così siete invogliati a seguirci, a seguirci, no? In diretta, assolutamente sì, e a intervenire. Benissimo, allora... E fatelo, in particolare oggi che c'è anche un ospite gradito, un ospite sicuramente che saprà dirci un sacco di cose interessanti sui Celti. Assolutamente sì, e sulla realtà appunto del revival celtico in Italia, in Toscana in particolare. E dunque, allora partiamo con, sì, con l'almanacco di Radio Cage. C'è una novità. C'è una novità. Abbiamo il jingle dell'almanacco di Radio Cage. Fede, quale sarà così mai? Bene, ecco. Forse l'avete riconosciuta. Se avete una certa età, ma bastano 20 anni. Quando ero piccolo, sì, io sì, c'era. Sì, in TV. Infatti. Bastano 20 anni e forse ve lo ricordate. Questo è la chanson baladée di Guillaume de Machaut, che è un compositore medievale, diciamo. Bene. Bene. Quindi, allora, oggi cominciamo. Oggi, 15 marzo, si festeggia Santa Luisa de Marillac, San Zaccaria Papa, San Menigno di Pario, San Probo di Rieti, San Sisebuto e Santa Lucrezia di Cordoba. Quindi auguri a tutti i probi e agli altri. Sì. Sì. Poi celebriamo la scomparsa di Giulio Cesare, che fra l'altro ci potrà dire Maurizio che era un nemico dei Celti, no? In certo senso. Sicuramente. Poi approfondiremo dopo. E poi, questo invece ci tengo particolarmente, la scomparsa di Howard Phillips Lovecraft, il grandissimo scrittore, inventore del genere horror moderno sostanzialmente. Sì, grandissimo scrittore americano, e noi lo amiamo molto. Se ne andava molto giovane nel 1937. Sì. E poi invece facciamo gli auguri a David Cronenberg, il regista, a Sabrina Salerno, la cantante e attrice e soubrette italiana. E poi ne hai altri? Sì, Ray Cooder, che è un grandissimo chitarrista. Gian Antonio Stella, il giornalista. Il giornalista. E poi sarebbe nato, cioè è nato, sarebbe stato, sarebbe stato il suo compleanno a Cesare Beccaria. Scrittore, eccetera. E vogliamo dire subito che fra pochi giorni, il 17 marzo, sarà il St. Patrick's Day. Sì, che è particolarmente caro agli irlandesi. Sì, sì, sì, sì, anzi vi consiglio, c'è diciamo così la migliore delle cantanti di musica irlandese, secondo me, ma anche secondo tutti, che è Lorena McKennitt. Sì, ho portato anche un... purtroppo ci sarà di mercoledì che io sono impegnato, questa volta me la perdo, ma insomma... Una beh, ormai diciamolo, dove... Alla Obi Hall di... ex Sasho, allora si chiama Obi Hall di Firenze, dove ecco. Sì, infatti si celebrerà appunto a Firenze, ma in vari luoghi della Toscana, comunque a Firenze all'Obi Hall, già da ieri e fino a sabato, dalle 20:30 ci saranno ogni sera 5 ore di musica e di cultura celtica, proprio per celebrare appunto San Patrizio, questo santo scozzese. Bene, e fra le altre cose è il compleanno di Bret Michaels, chitarrista e voce dei Poison, e quindi come primo pezzo ho scelto appunto uno dei più celebri, anzi sicuramente il più celebre, dall'album del 1988, Look What the Cat Dragged In, e questo è Talk Dirty to Me. Sentiamo. We'll be right back. Eccoci qua. Rieccoci in diretta, parliamo di celtismo e ne parliamo con Maurizio Pucci, che è il fondatore del Conciliabolo Celtico Toscano. Allora Maurizio, dici qualcosa, come dai. Sei arrivato, qualcosa a rando. No. Come... parliamo delle origini, sì. Parliamo del, diciamo, del tuo percorso spirituale, che sappiamo essere molto ricco, e come sei approdato al Conciliabolo. Allora, per quanto riguarda me è semplice, è un percorso comune a tutti quelli che oggi usano per identificare il loro percorso la parola celtismo, che è un neologismo in realtà. E vabbè, io ho iniziato a interessarmi di yoga, di buddismo all'età di 20 anni, poi sono passato al taoismo perché ho imparato lo shiatsu e tutto quello che riguarda la medicina tradizionale orientale qualche anno dopo, e poi attraverso le arti marziali, finché non mi è preso un po' il filone prima dello sciamanesimo e poi dello studio dello sciamanesimo europeo. Vabbè, hai saltato molte altre cose, perché mi sono letto appunto la tua biografia, per così dire, ci sono tante altre esperienze, sì. Ma appunto... Sì, vabbè, ci vorrebbe un'intera puntata solo per parlare di questo. Diciamo che in questo percorso avevo fatto parte di una formazione che sì, più o meno operava in Toscana, ma in realtà accoglieva per persone, non era una grande formazione, ma... organizzava feste celtiche più o meno in Versilia, in Lucchesia, così, che ha avuto una breve durata, ma che è stata intensa come esperienza. Alla fine di questa esperienza, dopo circa un anno e mezzo, due, io sentivo che mi mancava qualcosa, perché l'aspetto delle feste era proprio fortemente rivitalizzante anche per una persona moderna, no? Queste otto sì. occasioni all'anno che celebrano il passaggio stagionale, solstizi, equinozi, piuttosto che feste evocate, che hanno una loro origine in date care al mondo agropastorale, le date dove si semina, dove si raccoglie, dove eccetera, eccetera, eccetera. E lì cominciai con un minuto gruppo di amici a rifrequentare, a riorganizzare delle feste all'aperto. Mi ricordo la prima avvenne nell'Imbolc, che è il 2 di febbraio del 2005, sulla spiaggia di Viareggio di sera, era freddo e anche nuvoloso. Riuscimmo a accendere un focherello e a berci un po' di idromele, passò la serata e finì con una nota carina. Imbolc, che è una festa dedicata alla dea Brigit, che ha come animale totemico per gli antichi irlandesi la volpe. Alla fine della serata abbandoniamo la spiaggia, ci dirigiamo al parcheggio del Viale a Mare, dove che confina con la pineta di Viareggio, e una delle ragazze che era lì dice: ma cosa sono quei tre canini strani là che ci guardano? Tre volpi con gli orecchioni belli alti al bordo della pineta. Ma ci sono in zona, quindi sì. La pineta di Viareggio ormai non è difficile mangiare in un ristorante che confina sulla pineta e sul retro vedere i cinghiali che pascono. È normalissimo. Okay, okay. Sì. Beh, quindi è proprio una zona adatta, infatti, sì, a fare revival di questo tipo. Ecco, parliamo un po' della base culturale che vi ha, insomma, su cosa fondate le vostre conoscenze della cultura celtica. Sì, ecco. Se posso inserirmi con una domanda qui, che mi sembra, che è impegnativa, ma mi sembra buona per introdurre, no, tutto il discorso sulla cultura celtica. Diciamo che il celtismo si inserisce nel neopaganesimo, questo si può dire, no? Diciamo che è un'affermazione accettata, ma andrebbe così elaborata, contestualizzata comunque, sì, per ora prendiamola per buona. E quindi chi sceglie il celtismo, il druidismo, perché sceglie questo neopaganesimo e non quello ad esempio egizio, classico? Qual è la differenza? È molto semplice, perché se per esempio io volessi praticare della magia rituale egiziana, dovrei farmi degli studi abbastanza complessi e accedere a rituali che sono veramente anche difficili da incastonare, ma non sono nulla di diverso che una normalissima messa cattolica, con tutto rispetto per la messa cattolica. Beh, non è offensivo nei confronti, anzi, semmai. Per esempio, per dirne una, tutta una serie di attrezzi che il prete e il sacerdote usa alla messa sono proprio di derivazione egizia. Lo stensorio, per esempio, è una cosa che deriva dal culto di Osiride. Ecco, diciamo che il celtismo invece non è, se la volessimo chiamare per quello che è, non è neanche veramente una religione, è una spiritualità. Intendendo come religione il contenitore e come spiritualità il contenuto. Quindi in questo momento non c'è, e io spero vivamente che non arrivi mai a esserci per dei motivi pratici che ora diremo, una classe sacerdotale druidica o neodruidica, o perlomeno non vi è una struttura similare a quella vaticana che organizza seminari, scuole di formazione, eccetera, eccetera, se non una via naturale. E quello che intendono, perché non c'è mai stata, probabilmente c'è anche stata, diciamo che tutti gli ultimi druidi d'Irlanda sicuramente sono confluiti nel monachesimo irlandese, no? E quindi ne abbiamo prova scritta, ma io direi, però ti auguri che non si ripeta questo, per un motivo semplice, perché la casta sacerdotale di oggi secondo me è un po' troppo fuori dai tempi, un po' troppo lontana dalla naturalezza dello spirito. No. Ho capito. Allora è ancora comoda per la nostra società, che ha ancora bisogno di forti punti di riferimento. Cioè, immaginiamoci per una anziana signora, che potrebbe essere una mia zia o mia madre, che ha come riferimento la domenica mattina il suo culto, il suo rito, come glielo possiamo togliere? Sarebbe una cattiveria e una crudeltà inutile. E lo stesso, noi non siamo ancora formati nel mondo spirituale ad accogliere o a celebrare certi momenti, come per esempio la morte, no? E noi comunque, quando muore qualcuno, abbiamo bisogno di portarla a baranchiesa, di dire qualcosa, di... il rito è quello. E non esiste nulla che ancora abbia, possa, nel nostro mondo... Beh, non è diffuso, diciamo, ci sono alternative già oggi, sì, ma non sì, sono sì, diffuse. Sì. Diciamo che una bella alternativa è stata quella che è stata concessa da un ultimo decreto legge del 2005, che consente l'aspersione delle ceneri, in quanto quasi tutti, io per primo, quelli che frequentano questo... mondo, amano pensare di essere cremati possibilmente su una fira di legni, cosa che sarà ancora impossibile, quello... che le ceneri vengano asperse su un elemento naturale, quello è fattibile, infatti, quello è ancora fattibile, sì. Per quanto riguarda invece per esempio momenti come battesimo, sono ancora temi dibattuti. Diciamo che la cerimonia che somiglia di più a una cerimonia religiosa di qualsiasi religione riconosciuta monoteista è il matrimonio, che tengo a dire assai diverso come intenzioni a quello di un matrimonio come conosciamo noi, in quanto tutte le religioni politeiste riconoscono, hanno una forte componente maschilista, cosa che invece le religioni naturali, quando non sono matriarcali, diciamo, hanno un equo bilanciamento fra energie. Quindi semmai sono addirittura sbilanciate in favore della donna. Sì, però le società matriarcali hanno sempre avuto un certo grosso rispetto per il maschio, cosa che invece le società patriarcali non hanno avuto. È una bella differenza. Una bella differenza. E quindi si traduce in soldoni un matrimonio monoteista, e non dico solo per cristiana, ma anche perfino islamico o ebreo, è spesso e volentieri un accordo fra un padrone e una serva. E invece un matrimonio naturale è un accordo fra due persone che si amano, dove il sacerdote è una figura, o la divinità addirittura, una figura assolutamente marginale, dove invece il punto centrale della cerimonia è la consacrazione dell'amore fra le due persone. È un accordo paritetico. Voi organizzate queste cerimonie? È una delle cose che il conciliabolo fa. Sì, anzi, e sei proprio tu a officiare? Anche. Benissimo. Sì, continuerei dopo un po' di musica. Sì. Ok, allora ci immergiamo un po' nell'atmosfera dell'Irlanda, della musica celtica, con Robert Matheson, The Big Bird. Eccoci tornati da questo viaggio nel celtismo musicale anche, e adesso torniamo al celtismo verbale, ma non solo. Salutiamo intanto Paola, che ci segue da Lecce. Ciao Paola. Paola, ciao. Allora, stavamo parlando quindi dei matrimoni, no? Sì, i matrimoni, sì, celebrati, ecco, dal conciliabolo e anche da Maurizio stesso in persona, e delle feste, no? Ma quindi appunto come siete innanzitutto come è nato, no? Proprio in due parole il conciliabolo, e poi quali sono le credenze a cui vi ispirate? Ma il conciliabolo è nato semplicemente intorno al bisogno di ritrovarsi a fare delle feste che avessero tre tipi di contenuto: un contenuto conviviale, uno spirituale e uno ludico, no? Ecco, scusami se ti interrompo, dove avete appunto trovato le notizie su come erano i rituali, in modo, cioè voi cercate di emularli, no? Io li ho ereditati fortunatamente, non ho avuto bisogno di libri, se non come corollario, come si direbbe in latino, ad colorandum, perché ho avuto l'occasione di essere accoppiato, di essere sposato con una donna per metà di origine irlandese, che mi ha trasmesso per 4 anni di relazione matrimoniale, quello che era la sua esperienza, ecco, familiare. Quindi io, anzi, ti dirò che quando mi incontro con colleghi che fondano la loro esperienza tutta sui libri, un po' mi ci viene da ridere. Ti dico la verità, perché vedo, vabbè, certo, che un'esperienza diretta è sempre, no, preferita. Non, questo non per piaggerie, proprio perché vedo che danno importanza a dei valori dove un nativo non, assolutamente non dà, e altri valori che invece sono importanti passano un secondo. Per esempio, per fare un esempio concreto, il celtismo italiano è fatto in maniera potente, importante, come numeri, da rievocatori che danno molta importanza alla filologia, quindi che l'abito sia quello sì, del 2000 avanti Cristo, che la spada abbia la stessa foggia, quindi apparenza, via, diciamo. E quindi si parla di contenuto, anche aderenza storica, sì, comunque, sì, certo, sì. Una certa tradizione, no, ma penso che fosse questo il senso, sì, della critica. Voglio rispettare questa scelta, perché comunque una scelta di passione, di ricerca, di studio, però stiamo parlando di contenitori, non di contenuto, no? Sì, sì, no, non è affatto una cosa negativa, è solo una cosa diversa, semplicemente, sì, esatto. Un aspetto della... Perfetto. Sono due tendenze, no, che si riconoscono in tutto il neopaganesimo, quella diciamo dell'aderenza alla tradizione e quella dell'innovazione in un certo senso, no? Sì, che però l'innovazione, ci dicevi anche fuori onda, può spingersi troppo oltre. Ad esempio i Wicca, ci dicevi che sono un'influenza negativa sul celtismo. Non esattamente negativa, è che diciamo che si tende a confonderli, ma sono due strutture assolutamente, apparentemente uguali. Wicca usano le stesse date di festeggiamento, però se tu vai a vedere sono rituali spesso complessi, e sfuggono spesso e volentieri, non me ne vogliano Wicca, parecchi sono miei amici. Anche il celtismo è fatto per una bella fetta da quella origine, sicuramente comunque è comune, no? Sì, no, no, allora, quindi... sì, però diciamo che mentre la Wicca è una religione neopagana fondata da Gardner, dai nomi dei sì, padri fondatori, che anche loro, guarda caso, dopo un viaggio in Oriente e studi esoterici eccetera eccetera, si sono messi lì e hanno trovato, addirittura uno si dice che abbia trovato dei testi di stregoneria italiana, e ha rifondato questa religione mettendo insieme un po' di concetti. E questa è, diciamo così, una però poi vedi che chi lo pratica è aderente, legge il libro e fa esattamente quello che c'è scritto, con a volte del senso critico, a volte meno. Quello che intendo invece fare io è prendere quello che di buono che la tradizione antica ci ha lasciato, ma che è rimasto un po' indietro nel tempo, e quindi può essere, per esempio, l'emozione che ti dà ascoltare sulla vetta di una montagna un alito di vento che ti accarezza i capelli, per chi ce l'ha, o la faccia per chi come me la faccia non ce l'ha, e lì, senza dire che siamo lì per un po', questa emozione fortemente intensa la può provare anche un normale passeggiatore della domenica, che però in quel momento lì è innegabile, si sente vicino a qualcosa di divino. Sì, ho capito, più o meno la distinzione è chiara, cioè se sei meno attenti, diciamo, a seguire pedissequamente i rituali, i testi, ma siete più emozionali anche in un certo Perfetto. Senso, no? Oppure che dirti, io diciamo sono stato uno yappi quando uno young professionist, con tutto quello che comportava, no, negli anni 80 esserlo, e quindi ho passato parecchie delle mie serate del fine settimana nelle discoteche della Versilia a ore e ore e ore a coltusciate negli orecchi, vedendo poco perché con le luci psichedeliche non si ha una perfetta percezione di chi sta intorno, e la prima volta che mi sono trovato intorno a un fuoco in un bosco con degli amici ho capito che quella non era quella che avevo alle spalle, non sarebbe mai più stata la mia scelta di vita, e che io avrei voluto ripetere più volte possibile nella vita l'esperienza di quella sera, e così è stato. Ecco, queste quindi, sono anche le origini, quindi, del tuo interesse per la spiritualità di Maurizio. Anche, in certo senso. Allora, ci facciamo una interruzione musicale, direi, sì. E abbiamo proposto anche a Maurizio, come a tutti gli ospiti, di insomma, presentare un brano che a lui è particolarmente caro. Quale hai scelto? Ho scelto un brano che il nome è impronunciabile, ma è di Lorena McKennitt. E è bellino perché lei si è ispirata a questo brano visitando un sito storico sulla Via della Seta, ma in Asia, dove sono state trovate, in territorio cinese, dove però sono state trovate delle mummie di donne con i capelli rossi. Ah. E si pensa che fossero comunità di nomadi di origine celtica, quindi centro-europea, che si sono fermati lì e è andato e quindi idealmente lei ha ricostruito nella sua in questa canzone e ha messo insieme delle sonorità che sono sì celtiche ma anche vicino a qualcosa di orientale. È un ponte ideale fra Oriente e Occidente che rappresenta un po' quindi anche il mio di percorsi, no? Certo. Infatti questo nome impronunciabile è greco. Provaci, è greco, ci provo. Che è charitomene, o che è caritomene, che è una parola biblica che significa piena di grazia, perché quando qualcuno si rivolge a Maria dice a salve piena di grazia, dice questa parola. Ce l'ascoltiamo, Lorena McKennitt. Eccoci in onda. Allora, con Maurizio Pucci, ma adesso facciamo lo celtico toscano, ma facciamo una pausa perché parliamo del nostro concorso esistenziale. Il domandone esistenziale di questa puntata. Vi ricordiamo di scriverci le domande, cioè le risposte, ma anche le domande che volete fare a Maurizio eventualmente a Testo Show @gmail.com oppure su Skype a Testo Croce Show. E comunque appunto vi ricordiamo, il concorso come al solito funziona così: facciamo delle domande nel corso delle puntate, in base alle risposte, alla partecipazione alla trasmissione scegliamo due possibili vincitori e poi tiriamo a caso una moneta e estraiamo. Siamo arrivati all'ultima domanda e il premio rimane ancora un mistero, lo sveleremo nella prossima puntata. Forse, come sempre. Ecco, per presentare la domanda di questa puntata vi vado a leggere un passo dai Vangeli Gnostici. Vabbè, i Vangeli Gnostici sono degli Evangeli che non sono riconosciuti dal canone cristiano, ma non sono neanche quelli apocrifi, però sono quelli riconosciuti dalla Gnosi, appunto, che è una branca, diciamo, che ha origini comuni col cristianesimo. Ecco, questo è dal Vangelo di Filippo. L'uomo si associa con l'uomo, il cavallo si associa con il cavallo, l'asino si associa con l'asino, le specie si associano con quelli della loro specie, allo stesso modo lo spirito si associa con lo spirito, il logos è in comunione con logos e la luce è in comunione con la luce. Se tu diventi uomo, l'uomo ti amerà. Se tu diventi spirito, lo spirito si porrà in comunione con te. Se tu diventi logos, il logos sarà in comunione con te. Se tu diventi luce, la luce sarà in comunione con te. Se tu diventi ciò che è in alto si riposerà su di te. Se tu diventi un cavallo, o un asino, o un vitello, o un cane, o un montone, o un qualsiasi altro animale che si trovano al di fuori e al di sotto, tu non potrai essere amato né dall'uomo né dallo spirito, né dal logos né dalla luce, né da ciò che è in alto né da ciò che è all'interno. Questi non potranno riposarsi in te e tu non avrai parte in essi. Ecco, come sentite c'è una bella differenza fra i testi dei Vangeli canonici e quelli gnostici, hanno un suono completamente diverso. Ecco, comunque la domanda che vi vado a porre è legata in certa parte ed è questa: le diverse specie hanno tutte pari dignità? Ecco. Quindi insomma, si è parlato nel passo appunto di animali, e se tu ti comporti come un animale non avrai diritto a qualcosa. Ecco, invece voi pensate che le specie abbiano tutte pari dignità o che l'uomo magari sia superiore o, perché no, inferiore anche, chi lo sa. Quindi specisti o antispecisti in qualsiasi direzione. In certo senso sì. In qualsiasi delle due direzioni. Ricordiamo brevemente le altre domande prima di porre questa al nostro ospite. Allora, la prima era stata se scienza e fede sono compatibili. Sì. E poi la seconda. Ok, la seconda è rimasta nell'etere. Comunque le trovate tutte nel nostro blog, testacroceshow.blogspot.com, che potete visitare anche su adesso, appunto, e scrivete anche eventualmente un commento con la risposta. La seconda mi è giunta un'ispirazione dall'alto, se essendoci, diciamo, al di là, essendoci la prosecuzione della vita, uccidere lo spirito è immortale, esatto, uccidere è ancora un crimine, oppure no? E poi se la religione, la fede dovrebbe essere un fatto completamente privato oppure influenzare anche la sfera pubblica. Ecco, e poi questa di oggi: se le diverse specie hanno tutte pari dignità oppure no. Ecco, allora sentiamo come ci risponde Maurizio Pucci a quest'ultima domanda, per la precisione. Non mi conoscete. Non dovreste farmele queste domande, che ci vorrebbe una trasmissione di 24 ore. Vabbè, dai. Allora, diciamo sulla prima è interessante proprio per il sull'ultima che fa. Okay. Allora è semplice, sì, ogni specie ha un suo spirito, no? Che veniva rispettato e riconosciuto da tutte le popolazioni dell'antichità. E ognuno veniva in qualche modo ricercato per ottenere visioni o consigli, no? Senza andare lontano, Roma dice che è stata fatta lì perché Romolo e Remo hanno visto un volo di un falco che identificava lì, no? Quindi sì, il miglior posto. Ogni animale, a seconda delle sue in che cosa è diverso l'uomo, ogni uomo ha il suo spirito, secondo le popolazioni antiche gli animali hanno uno spirito comune, ecco. Quindi c'è una differenza. Ma questo, si configura come inferiorità degli animali? No, come altra dimensione. Come dimensione parallela con uguale dignità. Io quando si parla di animalismo mi piace, anzi anche quando si parla di altre cose, ci sono scene di film famosi che sono il miglior esempio di quello che io voglio significare. C'è una scena del film L'ultimo dei Moicani, ultima edizione, che inizia con una caccia al cervo. Il cervo viene abbattuto, caracolla dopo un colpo di fucile ad avancarica nel bosco, e quando il cacciatore, che è l'ultimo Chingachgook, il protagonista, che è Robert Lee Lewis, arriva lì, che però è un bianco ma adottato da indiani, sì, quindi ha delle abitudini da nativo americano, arriva lì e il cervo è morente e agonizzante, e lui prende un coltello, se lo cava, gli tappa gli occhi e lo ringrazia per la vita che gli dà, cioè che perdendo la vita al cervo, fratello cervo, ti ringrazio per la tua forza, per la tua vitalità, cioè. Questo anche nei Celti era usanza. Sì, i Celti erano estremamente vicini alla natura, ovviamente vivevano di pastorizia, quindi uccidevano, ma con grande rispetto dell'animale, per quanto sia difficile pensare, no, che si possa rispettare un animale quando si cosa. Però vi faccio un esempio: quando noi buttiamo via una mezza fetta di carne in un ristorante perché, cioè, sembra che facciamo uno spregio al bambino del Biafra che muore di fame, in realtà lo facciamo anche all'animale che ha dato la sua vita. Certamente, sono d'accordo, sì. Infatti ho letto, fra l'altro, nel vostro sito che voi state molto attenti a raccomandarvi anche nelle vostre occasioni a non sprecare il cibo, a portarne in quantità moderata. Sì, allora, quello è vero, ma è vero per un motivo semplice. Ti spiego perché. Siccome uno dei momenti importanti delle festività è il cibo in condivisione, e si richiede che ognuno lo prepari con le proprie mani, perché ci mette un po' del suo spirito. Sì, no? Sì, certo. Osservando, fra l'altro, che il sapore dello spirito si sente, ma lo sappiamo tutti senza avercelo mai detto, perché la torta della nonna fatta dalla nonna ha un sapore diverso da quello fatta dalla mamma. Vabbè, sì, la torta della nonna nonna è sempre me. Succedeva che alle prime feste eravamo tipo 20 e tutti scrivevano: quanti siamo? E io 20, quindi 20 persone portavano cibo per 20 persone, e quindi c'erano 400 porzioni, sì, okay. E quindi ne rimaneva la bellezza di 380, quindi c'è una ragione più logistica in questo caso, quindi, con buona pace del sottoscritto, che dovendo riassettare la locazione che prendiamo in affitto, che è un centro naturistico di Capezzano Pianore nel comune di Camaiore, doveva il giorno dopo prendersi mezza giornata di ferie per ripulire tutto. Pensavo fosse più legato ai valori, ma comunque parliamo un po' appunto dei valori a cui vi rifate, cioè, facciamo, quali sono i capisaldi? Ma lo facciamo nel prossimo blocco. Andiamo con un brano musicale. Va bene. Allora ci potremmo ascoltare, ad esempio, un pezzo dei Cream, che è il gruppo originario di Eric Clapton, per chi non lo sapesse, e ci sentiamo una canzone del 1967 dall'album Disraeli Gears, e questo è Sunshine of Your Love. It's getting near dawn when lights close the tired eyes. I'll soon be. Ah. Eccoci qua a parlare sempre di Celti e cultura celtica con Maurizio Pucci. Allora, rieccomi anch'io. Sì, ero un attimo nello mondo dello spirito. Una dimensione parallela. Esatto. Sì. Allora, quindi stiamo quasi per chiudere la trasmissione, quindi arriviamo al nucleo delle credenze e dei valori del Concilio Apolo Celtico. Diciamo che quello che si chiama mondo neoceltico neodruidico è una terra vastissima. Sì, un universo pieno di tante. Diciamo che io parlo solo a nome dei miei che ho espresso nel Concilio Apolo, perché poi se venisse qualche, per esempio, mio collega, magari, che ne so, lombardo, potrebbe dire delle cose solennemente diverse. Diciamo che i valori del conciliabolo sono l'amore per la natura, ma non in senso fanatico, l'amore per il trascorrere del tempo, cioè la celebrazione del tempo, delle stagioni, come momento di crescita dell'uomo, quindi di salute spirituale, valori come la pace, come l'amicizia e la fratellanza e quindi la solidarietà, valori come l'amore, come il culto dell'amore, il rispetto uomo-donna, quindi rispetto per tutte le cose che esistono, perché tutte sono un'emanazione divina, ecco, sì, senza dargli necessariamente un nome. Questo non significa che siamo proprio, ecco, uno del conciliabolo, se prende uno schiaffo di solito non sta zitto e non lo ridà. Sì, sì, vabbè, siamo tutti uomini comunque. Sì. Alla fine. E questo direi che poi ci sono altri valori che sono tipici di tutto il mondo celtico, invece, che sono per esempio onore alla parola data, che ha un contraltare di furbizia, di astuzia, non promettere mai ciò che non sei sicuro di non poter mantenere, no? Direi che giusto, perché se poi qualcuno ci conta certo. Diciamo che sostanzialmente sono quelli che si esprimono poi nell'incontrarci, come si è detto, 8 volte l'anno, nell'organizzare queste feste che durano più o meno 3 o 4 ore, dove c'è una parte ludica dove ci si incontra. È fondamentale, è una cosa che io mi porto dietro in tutte le mie esperienze, un cerchio di presentazione che ho scoperto essere tipico anche dei monaci tibetani. Tutte le volte che si incontrano per meditare fanno un cerchio dove magari si conoscono benissimo da 20 anni, però dicono: sono Maurizio, benvenuto, buongiorno o buonasera, no? Quindi ok, facciamo quello che dobbiamo fare. E qui lì ci piace, perché è un momento proprio di condivisione dove si scioglie il ghiaccio e ci si allenta, no? Allora vedi che aiuta molto poi anche in tutte le altre cose che dobbiamo fare. Ecco, come si fa se si vuole entrare in contatto con la vostra realtà, per gli interessati? Ecco. Guarda, è una cosa apertissima a chiunque, e sono contento di poterlo dire, perché grazie a Facebook a noi non interessavano i numeri, non è una realtà commerciale, per cui a noi ci basta fare delle feste, poi se siamo 20... va bene, se fossimo 200 potrebbe darci qualche problema. Sì. Non siamo, diciamo che abbiamo un blog che è Conciliabolo Celtico, che si trova su Google appena lo clicchi, oppure su Facebook c'è proprio il gruppo Conciliabolo Celtico Toscano, o il profilo personale Conciliabolo Celtico, dove uno si iscrive e automaticamente viene informato, trova tutti i contatti, insomma, quello, anche nel dettaglio, insomma, qual è un po' lo spirito, il perché e il per come del conciliabolo, che cosa si vuole intendere o cosa non si vuole intendere. Quindi è assolutamente aperta a tutti. La cosa bella, proprio perché non somigliasse a nessun tipo di struttura religiosa, non ci sono tessere, uno va e viene quando vuole. Ci sono delle piccole semplici regole di rispetto considerare quando c'è la parte rituale, per non imbarazzare nessuno. Se uno non vuol partecipare al rito, e di solito non è un rito, che rito è? Si accende un fuoco e ognuno di fronte al fuoco dice il suo desiderio, il suo intento per il mese e mezzo prossimo, nulla di più. Molto semplice. Molto semplice. E se uno non vuole farlo perché non gli piace dire, gli viene richiesto di non stare a guardare gli altri, perché gli altri si sentirebbero, vabbè, sì, delle cose proprio di base, di cortesia, insomma. Nulla di che, quindi non ci sono dei regolamenti così imperiosi. L'ambiente di solito è molto gioviale, quindi non è che. Si beve l'idromele, no? E quindi questa è la parte decisamente interessante che piace, sì, a tutti, perché c'è proprio il giro dell'idromele, che ha questo: si beve in un corno, no? In un corno animale che si chiama il corno che putoro. Fa parte del simbolo, fra l'altro. Fa parte del simbolo perché il corno e non un calice, per esempio? Perché il corno nell'antichità era sintomo di ricchezza. Brindare nel corno significa brindo a te tante cose belle, no? Perché non, quando non c'erano le monete, la ricchezza era il bestiame. Per vedere quanto bestiame c'avevi, contavi le corna. Ecco. No, quante per esempio, la runa vichinga che indica il denaro è una corna di renna. È un corno di renna, no? Poi c'è la cornucopia, no? Sì, che è cornucopia, perfetto, sì, simbolo dell'opulenza. Perfetto. Però, sì, e quindi si passa in maniera veramente poco igienica questo corno da una bocca all'altra. Vabbè, però, nessuno si è mai lamentato, soltanto i vegani che non bevono alcolici, ma con grande poi rimorso, perché l'idromele è proprio buono. No, ma perché non, un vegano non dovrebbe bere? Perlomeno quelli che sono capitati. Forse perché si fa in un modo particolare, l'idromele non so, una ricetta. Poi infatti, se me ma la è lasci... molto semplice. È una delle altre attività del conciliabolo che facciamo raramente, solo quando ce lo richiedono. È un seminario che dura 3 o 4 ore. Io stesso l'ho creato, io, quella è proprio un'opera mia, e l'ho portata per esempio a Celtica, che è la più grossa manifestazione della comunità celtica d'Italia, che è in Val d'Aosta, vicino Courmayeur, tutti gli anni, a luglio. Per 2 anni ho fatto questo seminario a tutti i gruppi, a quanti lo volessero praticare, ha avuto anche abbastanza successo, è stata un'esperienza interessante. C'è la prima parte, che è una conferenza con tanto di slide dove spiego tutti perché, per come, perché, e ora c'è una parte veramente interessante, e l'altra proprio insegno a farlo fare. Purtroppo non è una cosa che deve fermentare, si berrà dopo 3 mesi. Quindi... Vabbè, insomma, si pazienta. Beh, attesa. La cosa che, ecco, diciamo così, la cosa che potrebbe stuzzicare la fantasia e l'informazione, nelle popolazioni antiche si sposavano i primi di maggio per la festa di Belten, dove si celebravano nei 5 giorni, dal 1 al 5 di maggio, prima i divorzi, che non l'ha inventato Pannella il divorzio. Sì. Poi c'era 1 o 2 giorni di amore libero, che dopo la cristianizzazione questa cosa qui è diventata il palo di maggio, che è un qualcosa di eretto intorno al quale tutti ballano, quindi ha una simbologia squisita, molto forte, sì, certo, erotica. E dopodiché le donne sceglievano quale sarebbe stato il loro marito, il loro compagno per l'anno a venire, e ogni matrimonio veniva riconfermato tutti gli anni. Poi che cosa succedeva? Ci si allontanava dal nucleo abitato, dal villaggio, in una capanna, in una tenda fuori dal villaggio, e vi si permaneva per 21 giorni, cioè un mese lunare, bevendo miele che dà forza e idromele che ha un effetto vitalizzante, rallegrante e un sottile effetto Viagra. No? Ok, per 28 giorni. Sì, sì. E questa ha dato il nome a luna di miele. La luna di miele, okay, viene da lì. In realtà era luna di idromele, cioè quando si beve quella cosa. Perché 21 giorni? Perché se per 21 giorni una coppia fa l'amore, è molto probabile che si peschi il momento nel quale lei sarà feconda. Eh beh. No? Per il calcolo delle probabilità. E quindi significava che 9 mesi dopo il bambino sarebbe nato più o meno a marzo, che in tutte le popolazioni, infatti è il mese di Marte, che diventa Lug nel mondo celtico, e quindi un guerriero, una persona con un carattere, insomma, mica poco da ridere, insomma, era... E quindi questa è tutta cosa che hai visto ancora, no? C'era una canzone che diceva maggio vedrai che ti sposerai, è l'uso sposarsi a maggio, ma deriva da lì fondamentalmente. Benissimo. Sì, no, tantissime cose veramente interessanti ce ne sarebbe, no, da tra dire. Tra l'altro Maurizio è preparatissimo, anche fuori onda continuava a darci informazioni, sì, che non siamo, sì, stati in grado, cioè, di dare, cose che sarebbero state interessanti, sì, anche per voi anche sicuramente in diretta, sì. Però siamo alle battute finali, sì, purtroppo, siamo agli sgoccioli. Siamo agli sgoccioli, però appunto una domanda veramente flash, una risposta secca, ma il conciliabolo ha un orientamento politeista o monoteista, animista? Ti dirò che nel conciliabolo è una domanda che si elide, perché tutto è uno. Cioè, le varie divinità o i vari spiriti, anche animali o della natura, vengono considerati come tutte un'espressione di un'unica grande potenza divina. Quindi c'è un panteismo? Diciamo, non si utilizza quasi mai il nome delle divinità. Ok. Benissimo. Allora sì. Passiamo alle... Diamo qualche segnalazione. Qualche segnalazione, sì. Vorrei cominciare appunto perché so che il Concilabo sta organizzando la prossima, sì, festa. La, no? Prossima festa sarà la festa di Eostre, che corrisponde alla Pasqua cattolica, soltanto che non viene non è un calcolo che cambia tutti gli anni, ma sarebbe l'equinozio di primavera. È dedicato all'Est, quindi la dea dell'Est è Eostre, che è rappresentata da una coniglia feconda o dall'uovo cosmico, e da lì i simboli pasquali, ma casca... Giusto. casca il 21, sempre il 21, perché la coniglia? Certo, perché è l'animale più fecondo, no? Le figliolate di coniglio sono quelle 12-13 coniglietti, quindi sì, richiama la fecondità della primavera. E si festeggerebbe il 21, che cade infrasettimanale, per cui noi lo festeggeremo sabato 24 in un bosco, in una località boschiva lì, una piccola passeggiata, e poi su un torrente faremo un po' di picnic, un po' di abluzioni, un po' un bagnetto, insomma, così. C'è l'evento su Facebook, giusto? Con tutte le notizie, sì, i contatti, esatto. Eccetera, eccetera. Benissimo, se siete interessati. Se chiudiamo qua, vorrei ringraziarvi per l'ospitalità, spero di essere stato esaustivo nelle domande. Sì, sì, abbiamo ancora da fare una segnalazione di qualche altro evento. Sì, facciamo le ultime note, sì, e poi ti diamo la possibilità di chiudere, diciamo. Sì, sì. Allora, intanto dunque, il 17 marzo, quindi questo sabato, a Romagnano Sesia, incontri ad alta quota, gli avvistamenti dei piloti, inizio alle 20:30, ingresso gratuito. È una conferenza di Marco Guarisco, un pilota civile, e dai casi più famosi del passato fino ai giorni nostri. È ufologia. È ufologia. Parlano di UFO, sì, nella presentazione lo sottintendono, ma... sì, poi se no abbiamo a Roma, sempre lo stesso giorno, quindi dovete operare una scelta, però la mattina alle 10. E poi anche la domenica, quindi il giorno dopo, alle 18, seminario seminario con Serenella D'Ercole, Viaggiare nell'anima, a riscoperta delle proprie vite precedenti, secondo il metodo di Brian Weiss, presso il centro del Loto, via Luigi Chiarelli 33, Roma. Va bene, e altre? Sì, a Novi Ligure c'è il convegno della consulta di bioetica, questo sarebbe estremamente interessante, per un'etica del commiato tra arte e cultura, da venerdì 16 a sabato 17 fino alla sera. Il convegno si svolgerà alla Biblioteca Civica di Novi Ligure e parteciperà anche Valentina Calvelli, che è stata nostra ospite. E il programma completo programma completo si trova sul sito www.consultadibioetica.org. Benissimo, allora... poi vi segnalo rapidamente la presentazione venerdì 16 marzo, quindi domani se non erro, dell'album di Atterraggio Alieno, Il Disgelo, al GLU di Firenze. Benissimo, allora ringraziamo Maurizio, che è stato un ospite davvero preparato e ha detto cose interessantissime e anche molto simpatico, e ti diamo la possibilità di chiudere come vuoi, insomma, se vuoi fare un appello agli ascoltatori. Saluto, ringrazio voi, come ho già detto, saluto tutti quelli che hanno avuto la bontà di starci ad ascoltare, spero di aver arricchito con qualche notizia così divertente ma anche non interessante sicuramente il cuore di tutti, e buon proseguimento a tutti. Ecco, e vi lasciamo con la trasmissione di Jacopo, Dietro l'angolo, sulle band locali, e vi saluta Gab, Vince e Fede al mix. Se volete scriverci e rispondere alle nostre domande, vi ricordiamo ancora testacrocesshow@gmail.com. Oppure visitate il blog in questa settimana, testacrocesshow.blogspot.com, rispondete alle domande e trovate i podcast. E a giovedì prossimo, ciao a tutti. Ciao a tutti.